Mix 24 di Giovanni Minoli. Siamo dei custodi di una bellezza straordinaria, ma purtroppo non possiamo vantarcene. La fenomenale bellezza dell'Italia storica non appartiene solo a noi, è un patrimonio dell'umanità. Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti. Rischiamo, se non stiamo attenti, di essere eredi indegni. Dove sarò domani? Cioè, abbiamo ereditato la bellezza e non riusciamo a proteggerla. Se avessimo iniziato quando sei nato tu, avremmo quasi finito. Day by day, by day. Per questo ci vuole un progetto di lunga durata. E invece non abbiamo fatto quasi niente. Ora, quanti terremoti ci sono stati negli ultimi anni? Il Friuli, l'Irpinia, Assisi, il Molise, l'Aquila, l'Emilia, Amatrice, Norcia. Tutte le volte cadiamo dal pero. Ma domani lo so. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Questa notte un'altra scossa ha fatto tremare la terra nella zona del Maceratese, una scossa di magnitudo 4.8. Oggi cercheremo per quanto possibile di capire il perché la terra continua a tremare e quando e se gli italiani potranno ricominciare a ricostruire, fissando alcuni punti sulla qualità e i limiti del territorio italiano. Ecco, per parlare di qualità e limiti del territorio italiano abbiamo il professor Enzo Boschi. Buongiorno, geofisico, sismologo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, mi dica, intanto si parla di una terra deformata per 1000 chilometri. Che cosa significa esattamente? Che il movimento è di una di proporzioni assolutamente straordinarie? No, è un movimento normale quando c'è una scossa di queste dimensioni. La differenza è che adesso le possiamo fotografare con i satelliti, ma la Terra è sempre in evoluzione, si deforma, si rompe, si alza, si abbassa, è sempre stato così e sempre sarà così. Cioè, quindi era meglio quando non lo sapevamo? No, è meglio adesso che lo sappiamo, in modo che possiamo andare a fare delle verifiche. Per esempio, adesso stanno tutti andando a guardare l'abbassamento del suolo, ma un abbassamento è una stabilizzazione, sarebbe meglio andare a guardare dove il suolo si è innalzato, perché se da una parte le rocce sprofondano, da qualche altra parte si alzano, perché non è che possono sparire. E dove si alzano è più instabile. È più instabile perché, professor Boschi? Perché la stabilità... La stabilità è dovuta all'energia che un corpo ha. Se un corpo ha molta energia, quindi si è in alto, è più instabile. Se invece è in basso, rispetto sempre alla gravità, è più stabile. Se lei è in piedi, è meno stabile di quando è sdraiato. Non so se mi sono spiegato. Sì, certo, chiarissimo. Ecco, ma la Terra, quindi, diciamo, è così inquieta, ma non è più inquieta del solito. È inquieta come al solito, secondo lei? No, è sempre inquieta la Terra, estremamente inquieta, estremamente energetica, solo che i processi sono lenti e ce ne accorgiamo solo quando arriviamo a queste situazioni catastrofiche. Quando esplode, cioè, la crosta si deforma continuamente, a un certo punto non ce la fa più a sopportare la deformazione che viene dalle forze interne del pianeta e si rompe. Ecco, rompendosi genera onde sismiche molto energetiche che, arrivando sugli edifici, fanno i problemi, creano i problemi che sappiamo. Ecco, ma non è che noi allora, se il quadro generale è quello che lei descrive, immagino che sia questo, non è che sopravvalutiamo il nostro ruolo e dimentichiamo che appunto siamo di fronte a una forza immane della Terra, del cosmo, che è molto più forte di qualunque modo abbia l'uomo di intervenire, è così oppure sbaglio? No, non sbaglia, però l'uomo è estremamente intelligente e, scegliendo i luoghi giusti dove costruire e come costruire, per esempio ci sono ancora ponti costruiti da romani che vengono utilizzati in tutta Europa, per fare un esempio, quando l'edilizia è vista come un fatto quasi religioso, come in Giappone per esempio, allora si può, come dire, vivere tranquilli. L'edilizia non è vista come un modo per fare soldi, in Italia purtroppo è vista in questa maniera, per fare soldi rapidamente e il più possibile. Però molte, però professore, molte delle cose che sono crollate sono opere d'arte di centinaia e centinaia di anni fa, e quindi... E lei ha perfettamente ragione, ma sono opere d'arte che possono essere messe in sicurezza, come venne fatto con la Basilica di Assisi. Se lei la va a vedere è sempre la stessa, ma se va a guardare dentro, nelle zone che non si vedono, diciamo così, vedrà che c'è tutto un sistema di tiranti, di congegni che permettono di conservarla in sicurezza ancora per qualche millennio. Ecco, e quindi è quello che, non, che l'uomo non fa. È quello che noi italiani non facciamo, non facciamo manutenzione, non facciamo niente. Non abbiamo mai fatto prevenzione. Se ne parla tutte le volte dopo un terremoto, certo, con le parole che ho sentito prima dette da Piano. E da Crozza. Sono cose bellissime e poi ce le dimentichiamo subito, cioè, perché è come voler esorcizzare la paura in qualche modo. Sì, no, io credo che siano sinceri tutti quelli che hanno detto. Io mi ricordo i discorsi fatti dopo il terremoto dell'Irpinia, tutti dicevano non succederà più, faremo in modo che non succeda più, ma poi passa il tempo, i problemi diventano altri e tutto viene dimenticato. Senta, e nel momento in cui le dicono sono tutti sinceri. Senta, professor Boschi, ma che cosa rende così stabile la zona dell'Italia centrale? L'Italia centrale, non solo l'Italia centrale, adesso l'Italia centrale, in realtà praticamente tutta Italia, escluso poche zone, la rende nella posizione geografica in cui ci troviamo. Siamo, come dire, siamo sopra lo scontro che avviene violentissimo, lento ma violentissimo, fra la placca africana e la placca eurasiatica. Questa crea le montagne, crea tutti i problemi che sappiamo. Però bisogna tener conto di un fatto, che i terremoti sono una manifestazione caratteristica del nostro pianeta, cioè non può esserci la Terra così come la conosciamo, con l'atmosfera, la vita, tutte le cose belle che vediamo, senza terremoti. Quindi se si può vivere con... Cioè i terremoti sono i regolatori della Terra in qualche modo? Sono esattamente, sono la dimostrazione che è un pianeta vivo che consente la vita. Senta, ma esistono collegamenti con gli altri terremoti in corso sulla Terra o sono indipendenti? No, sono indipendenti nel senso che non c'è un rapporto di causa-effetto diretto. Però un fortissimo terremoto come quello di Indonesia del 2004, se lo ricorda, quello del grande tsunami, certo, o quello più recente di Fukushima, sono terremoti che, diciamo così, riassestano la crosta complessivamente, quindi hanno effetti ovunque. Quindi, come dicevo prima, la Terra è in continua evoluzione, non è mai ferma, malgrado le apparenze. Senta, professor Boschi, ma restando al territorio, quali devono essere i criteri dal punto di vista geologico da scegliere per ricostruire? Dunque, innanzitutto bisognerebbe fare delle analisi attente che vengono fatte, peraltro le informazioni ci sono, ma per esempio anticamente si costruivano paesi nel Medioevo, anche prima, paesi sui cucuzzoli delle montagne, perché per difendersi, certo, dagli invasori, dai nemici. Bene, questi cucuzzoli amplificano addirittura la perturbazione sismica, come avviene quello che viene chiamato un effetto punta. Quindi quelli sono luoghi sostanzialmente da evitare. Da evitare. Quindi sì, diciamo che in un certo senso è falso, per chiudere, che si potrà ricostruire tutto dov'era, perché la gente è normale, si capisce, attaccata alle sue tradizioni, alle sue case, alle sue abitudini. Però non è vero dire che si può ricostruire tutto nello stesso punto. No, non è vero. Ci vuole un grande, come dire, impegno razionale, intellettuale, culturale per partire una volta per tutte verso una, come dire, un nuovo rinascimento. Assolutamente non è vero. Sì, va bene, la ringrazio. Io ringrazio lei, grazie, ma l'emozione di parlare con lei mi ha fatto venire la tosse. Grazie mille, grazie professore. Ecco, Pietrangelo, l'Italia centrale è stata la culla della nostra cultura, abbiamo visto che disastri e che bellezze. Basta pensare all'arte visiva, alla letteratura, eccetera. Credi che sia un patrimonio andato perso? Si dice si rifà tutto, ma insomma pare che non sia così semplice. Ma io credo che le parole più chiare le abbia dette Vittorio Sgarbi nel suo ruolo di storico dell'arte, e la formula è ricostruire. Ci sono due esempi. Dresda era stata ridotta in polvere, e Dresda è un capolavoro della bellezza assoluta, dai bombardamenti americani, è ritornata alla luce, è stata ricostruita. L'altro esempio è quello di Noto, la cattedrale che si sbriciola ed è ritornata, è stata ricostruita. È una memoria che resta e ci sarà sempre. San Benedetto da Norcia è un patrimonio spirituale, metafisico, di assoluta bellezza. Mi permetterei, se me lo consenti Giovanni, di affidare a un ricordo, a una vena viva, presente nell'immaginario, che racconta Norcia nella meraviglia che è, che fu e che sarà sempre. Da Norcia. Brancaleone da Norcia. Fantastico. Mario, ma a proposito degli stanziamenti, no? Sì. Sono stati stanziati 3 miliardi, poi credo sì. Che oggi ci sarà, oggi, domani forse sì. Il decreto per intervenire sul patrimonio artistico. Pensi che bastino? Non è un problema di soldi, no. Anche perché io penso questo, che se pure il governo non li avesse, basta lanciare un concorso internazionale per quelle opere, avremo tutti i fondi più importanti che finanzierebbero la ricostruzione. Non è quello il punto. A me il punto importante, che mi pare sia emerso stamattina, è quello che ha detto il professor Boschi a te, cioè che non è vero che si può ricostruire dove c'è stata quella distruzione. È brutto da dire, ma è una verità. È così. Che comunque è importante sapere che il problema esiste realmente. Quando lui dice che non puoi ricostruire sul cocuzzolo di una montagna, e noi parliamo di paesi che purtroppo sono anche alcuni sul cocuzzolo della montagna, ti dice la verità. È questo il punto. Ma credo che la Protezione Civile questa lo abbia già abbastanza chiaro. Ecco, a proposito però dei fondi stanziati per il terremoto, voglio farvi sentire il punto di Paolo Pagliaro a 8:30 ieri, l'altro giorno, su quanti sono stati i fondi stanziati per i terremoti dal 68 a oggi. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l'Ufficio Studi della Camera hanno analizzato l'impatto economico sui conti dello Stato dei 7 peggiori terremoti avvenuti in Italia dal 1968 al 2012. L'esperienza dice che c'è stato un continuo ricalcolo delle spese e dei danni, con una costante produzione di norme per rifinanziare le attività di ricostruzione. E tuttavia qualche somma si può tirare. Si parte dal terremoto del 1968 nella Valle del Belice in Sicilia, magnitudo 6,1, circa 400 vittime e 70.000 sfollati. Da quell'anno e per i successivi 40 sono stati prodotti 27 tra decreti legge e norme tradizionali, con stanziamenti destinati a pesare fino al 2018 per un totale di 2,2 miliardi nominali, che corrispondono a oltre 9 miliardi odierni. Per il terremoto del 1976 in Friuli Venezia Giulia, che causò 990 vittime e 45.000 senza tetto, sono state prodotte 9 norme che hanno richiesto uno stanziamento pari a 18 miliardi. Si passa poi al 1980, quando nell'Irpinia, scossa da 6,9 gradi Richter, morirono 2.735 persone. I fondi predisposti dalle 33 leggi prodotte coprono il periodo 1980-2023 e corrispondono a 52 miliardi. 13 miliardi e mezzo è il costo dei 42 decreti emanati dopo il 1997, quando un terremoto provocò 13 morti nelle Marche e in Umbria. Nel 2002, tra Molise e Puglia, si contarono 30 vittime e la somma stanziata fu di circa 1,5 miliardi. Sui due sismi più recenti, l'Aquila nel 2009 con 309 morti e l'Emilia nel 2012, dove i morti furono 27, ci sono ancora delle stime approssimative, ma nel complesso si sono contabilizzati altri 26 miliardi di stanziamenti pubblici. Insomma, Mario, in tutto fa più o meno 110 miliardi di stanziamenti, ma questi soldi vengono usati per la ricostruzione o la messa in sicurezza? Perché mi pare che quello è il vero problema. In realtà è messa in sicurezza soprattutto, sì. Questo è il punto. Però, se fosse così sono spesi bene. Certamente sono spesi bene. Tu sai che c'è adesso un contenzioso aperto con l'Europa su questo naturalmente. Eccetera. Bisogna vedere se poi lo fanno, perché come sempre... Se fanno cosa? Se fanno tutto quello che annunciano. Certo. perché la realtà è che se uno fa un'indagine con lo sguardo rivolto all'indietro, si accorge che un sacco di cose non sono state fatte, ma perfino ad Amatrice, ad altri paesi, eccetera, i fondi per la ricostruzione o non sono stati usati, soprattutto messi in sicurezza e così via, o sono stati usati per altre opere che non erano quelle previste. Quindi insomma, c'è, come sempre, la burocrazia italiana offre la mille scappatoie, appunto, purtroppo. Residui passivi. Ecco, l'altro giorno sulla Stampa Mattia Felte ha scritto un articolo abbastanza insolito, il dovere di ascoltare i loro cuori. Mattia Felte, giornalista, buongiorno, giornalista della Stampa, negli ultimi mesi sei stato in quelle zone terremotate e ha raccolto la richiesta della gente di parlare, di essere ascoltato, che in genere i giornalisti vengono vissuti come dei rompiscatole. Invece nel tuo articolo hai scritto una cosa che mi ha colpito: c'era una sedia anche per te, giornalista, ti dice una signora, percepito eccezionalmente non come scocciatore ma come possibile ascoltatore. Ecco, perché la gente voleva parlare con te, cosa potevi fare per loro? Intanto buongiorno, e quello potevo fare, potevo ascoltare. Diciamo che noi giornalisti non abbiamo una ottima fama, ma forse da questo terremoto la nostra fama è un pochino migliorata, nel senso che sono 2 mesi che giro in quei posti e c'è stato il solito sciocco che magari ti butta la telecamera al naso e ti infila il microfono in bocca, o il taccuino naturalmente, però direi che la stragrande maggioranza dei giornalisti, io appunto ci sono stato tanto, li ho visti, erano lì. Li ho visti piangere, li ho visti scendere dalle macchine, aiutare la gente a trasportare le casse d'acqua, le borse della spesa, che poi naturalmente spesa non è, si va ai magazzini a prendere quel che serve e che viene distribuito. Noi quando salivamo da Amatrice a fine agosto, ci fermavamo, partivamo da Rieti, eravamo un gruppetto, più o meno si faceva carovana, ci fermavamo sempre allo stesso posto a comprare le sigarette, perché naturalmente era un modo di intervenire, certo, anche ma quello. Sai, ci si dimentica in quei momenti che il necessario arriva sempre, perché poi io ho visto una mobilitazione fantastica, commovente, ci si dimentica ogni tanto il superfluo. Per un terremotato che ha perso tutto, avere un pacchetto di sigarette è importante. Importante, come la gente che ha incontrato, appunto, ha bisogni reali e quelli, dici, in qualche modo sono soddisfatti, ma tanti desideri, quali sono i desideri più ricorrenti, insomma? Beh, naturalmente oltre ai... Vabbè, i bisogni naturali, insomma. Quelli sono... c'è qualcuno che provvede. E c'è bisogno di tante piccole cose. Ho visto una bambina felicissima di ricevere una Barbie nuova. Ho visto un uomo che aveva necessità e poi c'è riuscito di tornare a peso perché è ospite di un albergo e aveva un paio di prosciutti che voleva mettere a disposizione dell'albergo per gli antipasti. C'è gente che ha bisogno di farsi vedere dal medico. Il medico... io ero a Civitanova Marche un paio di giorni fa, il medico arriva in hotel, non sei tu che vai dal medico, e quindi questo bisogno di essere accuditi anche nella più piccola cosa, cioè una umanità che riscopre anche il piacere di incontrarsi, insomma, di stare insieme. Ma sai, quando tu hai dovuto abbandonare tutto da un momento all'altro, la cosa peggiore che ti possa succedere è di essere abbandonato. Solo, certo. Ma e alle promesse della politica, tu hai sentito una disponibilità a credere oppure una distanza? No, ma noi purtroppo facciamo sempre dei racconti sbagliati, noi andiamo sempre a pescare. Naturalmente la nostra politica è piena di guai, come lo è qualsiasi attività del nostro paese. Vi faccio solo un esempio. Domenica mattina la grande scossa da 6.5, il presidente della regione Marche non l'ha sentita perché era in automobile. Alle 7.30 di domenica stava girando i paesi del Maceratese colpiti dalla scossa. Quindi era un uomo che la domenica mattina alle 7.30 stava girando paese per paese a spiegare, a dare una mano, come si fa per avere una casetta di legno, dove si può andare a dormire nel frattempo. E qui c'è stata una mobilitazione enorme, enorme, e che forse non è stata adeguatamente raccontata. Cioè tu dicevi, lui non l'ha sentita perché stava in giro, insomma, a fare oltre il suo lavoro, insomma, il suo dovere. Io non so se fosse oltre, però forse sì, forse hai ragione tu. Ripeto, erano le 7.30 di domenica mattina. Sì, appunto. Oh, grazie, grazie Mattia. Ecco, Pietrangelo, in questi giorni molto si è parlato del desiderio della gente, ne abbiamo parlato anche prima con Boschi, di restare però in quelle zone, di non essere spostati da dove si hanno le radici. C'è chi ha parlato però invece di necessità di spostare, quasi di deportazione, un riferimento forte però, insomma sono parole anche da usare con una certa prudenza, io penso. Sì, il riferimento è forte, però c'è adesso l'urgenza di analizzare le cose con freddezza chirurgica e per esempio dirsi che la maggior parte di questi borghi, come tutti i borghi della grande provincia italiana, sono luoghi abitati purtroppo ormai soltanto da anziani. Basta scorrere le immagini e ci si accorge come siano pochissimi i bambini, e questo deve far riflettere nel lavoro di ricostruzione anche nel tenere conto del tessuto sociale, e quindi soccorrere non solo le mura ma le imprese, le attività commerciali ed economiche, soccorrere là dove c'è la capacità di produrre ricchezza e quindi futuro. Ecco, a proposito di ripartire, possibilmente di ricostruire, che è il tema che stiamo cercando di affrontare nelle zone colpite dal terremoto, abbiamo con noi Massimiliano Fuxas, un grande architetto italiano. Ecco, Fuxas, lei costruirebbe una casa nelle zone colpite dal terremoto? Certamente, se il nostro lavoro è per la gente, non è per noi stessi, perciò il nostro obiettivo è lavorare per quella che si chiama in inglese human being, oppure l'umanità. Ma con che criteri e materiali lo farebbe oggi? Beh, oggi i criteri sono sempre quelli, è una struttura o in legno o in acciaio o mista legno e acciaio, e poi con una muratura completamente autonoma, asismica, eccetera. Senta, molti appunti dicono, lei parla del legno, che il legno è un ottimo materiale da costruzione, però in Italia viene usato poco, perché? Anzi pochissimo. Beh, il legno è usato poco quasi da tutte le parti del mondo per un semplice motivo, perché ha un problema ecologico, cioè è lì il legno, il materiale più ecologico, ma quello che se noi lo usassimo distruggeremmo foreste intere. Beh, allora però ricrescono, usarlo. Gli alberi ricrescono anche. Certo, però bisogna allora usare gli alberi che sono stati coltivati apposta per essere tagliati, eccetera, eccetera. Però questo è fattibile, è utilissimo e lo vedo qualche cosa che fa parte delle nostre corde. Quindi Fuxas, nelle case lei ha detto deve tornare il legno di una volta, lo sta dicendo, ma perché c'è un partito del cemento che non vuole il legno? Ma io credo che il partito del cemento c'è stato negli anni 60 e 70, ma non solo in Italia, era in tutta Europa, perché era un materiale che veniva promosso, il cemento, dalle grosse industrie. Oggi siamo ritornati, chiaramente maggiormente uso l'acciaio, acciaio, vetro. Cioè l'acciaio e il vetro sostituiscono il cemento adesso? Beh, io cercavo di sostituire il cemento e di farne poco. Pochissimi miei edifici sono in cemento. Senta, ma serve un piano nazionale di ricostruzione secondo lei, o bisogna intervenire caso per caso a seconda delle zone colpite? Beh, io credo, il piano nazionale non lo so, però un piano sugli Appennini, per gli Appennini, per i piccoli centri, per i piccoli comuni e per le piccole città che rappresentano questo paese, forse più di qualunque altro, perché sono i piccoli comuni che rappresentano questa voglia di restare, tenere il territorio e abitare ancora zone difficili da abitare. Ma lei nella sua nuvola a Roma ha piazzato una molla antisismica. Che cos'è la molla antisismica? No, in 3 secondi le dico la storia. A un certo punto avevamo appena iniziato il cantiere quando la legge precedente sulle strutture asismiche è stata indurita, è stata resa più performante, più importante, perché Roma era salita di graduatoria, se si può dire questo. Sì. Allora lì c'era una scelta, noi potevamo mantenere la struttura come l'avevamo pensata, perché era stata approvata, c'erano tutte le approvazioni, o cambiarla, che avrebbe voluto ovviamente un lavoro supplementare. Guarda, non ci ho dormito 2 notti, la mattina del secondo giorno abbiamo stabilito di prendere questa cosa, di di farla completamente asismica. Abbiamo fatto un modello di legno in cui c'erano le misure per renderla sismica, che abbiamo ancora noi, circa 7 mesi, ecco, abbiamo ancora. Ma Architito, la caratteristica dell'essere asismico della casa, qual è la caratteristica principale? Devono essere strutture che sono chiuse, però la cosa fondamentale è quella che ormai spero che l'hanno capita tutti: non bisogna usare il cemento con le murature, quelle tradizionali. Senta, invece hanno fatto il cordo di cemento e le solette di cemento come copertura, che hanno schiacciato con il loro peso, esatto, le strutture esistenti. Senta, lei dopo il terremoto d'agosto doveva andare ad Arquata del Tronto, invitata dal sindaco. Adesso il paese non c'è più, è stato raso al suolo. Secondo lei potrà mai ricostruirsi là dove era? Secondo me tutto si può ricostruire. Non facciamo veramente oggi, in questo momento, non mettiamo la testa sotto la sabbia, perché hanno ricostruito dopo i bombardamenti città importanti, certo, che sono state distrutte, ad esempio Varsavia. Quindi, insomma, quindi si può ricostruire tutti i paesi dove erano, no? Tutto è possibile, credo che l'uomo può fare questo e ben altro. Ma detto più in generale, secondo lei cosa sta succedendo all'Italia? Qualcosa di normale storicamente, oppure sta cambiando e sta entrando in un'era destinata a cambiare davvero i connotati del paese dal punto di vista geologico? Ma l'Italia ha avuto sempre dei terremoti, noi, Roma ce n'è avuto uno del 700 che è stato gravissimo. L'Italia è una zona ancora molto giovane e l'Appennino è la più giovane delle zone giovani. E quindi c'è da aspettarsi degli assestamenti continui? Dovremmo convivere come fanno i giapponesi anche al terremoto, però non è che mitizziamo troppo gli altri, perché lo tsunami in Giappone ha creato molti problemi anche e tante altre cose. Cioè, noi non siamo secondi oggi a nessuno per capire, per comprendere scientificamente. E quindi anche per risolverlo questo problema. Secondo me sì. Non si risolverà mai, però risolveremo il problema di rendere l'uomo un pochino più solido. Solido rispetto a quello che abbiamo, ecco, visto. Le faccio un'ultimissima domanda, architetto Fuxas. C'è una cosa che vorrebbe ricostruire? Cosa le piacerebbe dire? Questo l'ha rifatto Fuxas. Io credo veramente che Norcia... Cioè il San Duomo Benedetto, di Norcia le piacerebbe rifarlo? E San Benedetto, non rifarlo. Farlo esattamente sì, come era. Vabbè. Ecco, Emanuele D'Alecco ci scrive: io voglio costruire in legno, risposta del comune, non si adatta al contesto paesaggistico. Tu Mario ti vuoi fare una casetta in legno? Sì, il mio sogno, non so se riuscirò mai a realizzarlo, ma voglio farlo. Sì. Posso dire che è bella la contrapposizione tra Fuxas e sì, c'è uno scontro, dicono due cose opposte. Però in fondo dicono anche la stessa cosa, cioè che è l'Italia del capire, del conoscere e del fare. Cioè bisogna studiare. Una è la visione del geofisico dopo aver studiato, esatto, e l'altra è la visione del grande architetto. D'accordo, Pietrangelo. Ma forse Fuxas si riferisce ai monumenti e Boschi invece all'abitare, che sono due cose credo diverse. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms, pubblicità. X24. Ecco. Allora, Pietrangelo? Arriva. Allora c'erano lettere oggi in metropolitana, lettere prese da giorni tutti vuoti, i controllori infatti le aprivano e le recapitavano ai destinatari, e c'era chi diceva addio senza volerlo dire, chi la faceva difficile, chi la faceva facile con le pillole che rendono la felicità, insomma, ha chiamato di nuovo, come ieri ha chiamato di nuovo Jacopo Ortis, ha voluto... Ma quello scrive poi... E invece no, ha chiamato, ha voluto questo brano e ha lasciato un messaggio. Lo volete sapere qual è il messaggio? Certo. Chi mi scrive lettere mi è nemico. Allora Mario, ancora America mi sa oggi. Beh, da Foscolo direi che possiamo tranquillamente andare. Tranquillamente altro, la fantasia, no? Ce l'abbiamo. Miss American Pie drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. And bye. Oh, io manco la presento, quindi andiamo oltre. Se no, Shazam, scoprite che cos'è. Allora, cosa succede in America? Io voglio qua fare un piccolo mini dibattito con te, Giovanni, e con Pietrangelo, perché a me questa cosa del presidente degli Stati Uniti, che dopo silenzio, dopo aver detto che lui non sarebbe mai intervenuto e così via, insomma, si scaglia contro il direttore dell'FBI, mi sembra veramente incredibile. No, soprattutto, cioè, si scaglia inutilmente contro, sì, perché non è che lo licenzia, o no, non dice te ne devi andare, no, gli dice brutto, gli dice cattivo, brutto, cioè, insomma, allora, lo sappiamo che Hillary Clinton è in difficoltà nei sondaggi e per carità i colpi bassi e alti nelle elezioni americane sono una costante, come in tutte le elezioni, però è veramente incredibile, secondo me, l'evoluzione, che la corsa finale della campagna, ricordo che mancano ormai 4 giorni, e beh, ha preso una piega bruttissima. Tu, Pietrangelo, che impressione hai? Beh, lui sei lì. Rispetto alla piega? Non alla messa in piega. No, il fatto in sé che il capo dell'FBI venga rintuzzato dal presidente degli Stati Uniti d'America spiega tutto il contrario, e cioè la debolezza del presidente Obama. Beh, è certo, la forza, certo, invece di una struttura di potere che da sempre prescinde da qualsiasi scelta politica. Certo, sì, no, basta, beh, pensare a Hoover. Quanti presidenti si è fatto? Non mi ricordo, 9, comunque 10. parecchi. Sì. Alcuni, no, li ha messi, lui. E altri li ha tolti. Però quella è stata una parentesi certamente molto buia. Comunque, insomma, questo è un punto. Obama, da dire, io non partecipo a essere schiaffeggiato. Poi scusa, l'altra cosa, giusto così per chiuderla, ma l'altra cosa è che Comey diventa un eroe in luglio quando scagiona la Clinton, e certo, tutti dicono olè, siamo innocenti, sì, e poi in ottobre diventa una minaccia per la democrazia americana. Questo si chiama double standard, cioè non va dubbio, bene, cioè, non fa bene alla democrazia americana, secondo me, e tu sai quanto Trump sia lontano da me, anche certo, la Clinton, aggiungo, però a questo punto è l'America che è un mito per te nel suo insieme. Sì, la democrazia americana è un mito per me, perché resiste anche a questa roba qua, ed è incredibile. Sì. Mi Pietrangelo la mi guarda con disgusto. La democrazia delle grandi famiglie. Salamino! Il vero sì e il vero no, caro Giovanni, non so se c'è sta questione della par condicio. Comunque, sì, dico che come l'asino di Buridano, il popolo italiano è chiamato a scegliere tra un secchio d'acqua e uno di paglia. Uno serve a spegnere la sete di renzismo, l'altro per incendiare la rottamazione. Ma il vero sì e il vero no sul referendum è un altro, e cioè chiedersi: si farà alla fine o non si farà? Perché Pierluigi Castagnetti, autorevole quanto appartato politico della vecchia guardia, ha dato un suggerimento, che è quello di rinviare. Ha parlato lui, ma è stato, caro Mario, come ai tempi del picconatore. La voce era di Paolo Guzzanti, che intervistava Cossiga, però lo faceva benissimo. Il titolare delle parole e il titolare del pensiero era il Presidente della Repubblica, e così, caro Giovanni, altro non c'è che Sergio Mattarella dietro Castagnetti. Non lo sappiamo, possiamo immaginare, ma non lo possiamo dire. Comunque, Castagnetti, ancora una volta, perché la voce è la nostra, ma le parole e i pensieri sono altrove. Il libro del terremoto, insomma, è aperto, ed è fuori luogo trascinare gli italiani nel plebiscito definitivo su cui Renzi o la va o la spacca. Il vero sì e il vero no passa, caro Giovanni, da tempi teatrali perfetti. E via avanti, cretino! Sì, perché come ai tempi dei fratelli De Regi, e questo invece che ascoltavamo erano Carlo Camparini e Walter Chiari, c'è sempre una forca caudina da attraversare, cioè vai avanti tu che a me viene da ridere. Oh, la luna di miele di Renzi, se bella che consumata. Oggi s'attende... Non si sa. Finché non si può. Vabbè, si è consumata. Scusa, non ha cambiato in fretta e in furia la first lady di fatto. Già, che sennò ti rovino lo storytelling. Dai, vai. No. Oggi che cosa si attende? Oggi si attende la sentenza sul ricorso che ha presentato Valerio Nida e che può fare slittare la data. Ma il tempo teatrale perfetto, caro Giovanni, di chi è? Dove l'ha avuto il suo cucù? Con Angelino Alfano. È stato mandato in una scoperta. Ha voluto chiedere il rinvio. Ha voluto chiedere di allearsi con l'opposizione per avere il posticipo. Ma che è successo? Che Renzi lo ha stoppato. Infatti ride come Carlo Campanini con Walter Chiari. Silvio Berlusconi invece, da navigato commerciante qual è, cosa ha fatto? Ha fatto orecchio da mercante. Anzi, meglio, Giovanni, ha fatto così. Mi sbagliaro un file. Parla più piano e nessuno sentirà. Insomma, Berlusconi muto sta. Se ne sta zitto, zitto, tanto lui lo sa. Parla più piano, il vero sì e il vero no è nelle mani di Onida. Ma e pensa quindi, a te. E pensa a te, le fortune di Renzi sono infinite. C'è ancora una bolla, Mario? Sì. Allora, qua siamo proprio, terre d'Africa in realtà. È un po' d'Oriente, d'Oriente. Africa non è questa. Vabbè, no, questa no. Questa però... è la scala musicale araba. Sì, vabbè, però. Vogliamo dire. In Africa io devo andare. Però io devo andare in Africa. Vabbè, abbiate pazienza. Devo andare in Egitto. Passi da lì. Che poi è un paese musulmano. Allora, la cosa è molto delicata perché non se ne parla quasi niente, in realtà per noi è molto importante, la sterlina egiziana è stata liberata, diciamo, dai vincoli del cambio oggi, i tassi sono stati alzati in Egitto, qualche giorno fa sono stati sequestrati gli zuccherifici senza che da noi ci sia stato, diciamo, neanche uno stormir di fronda per la situazione che si sta creando in quel paese. Tutto questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo un paese di 94 milioni di abitanti, al 90% appunto musulmani, con età media di 23,8 anni, che guarda al Mediterraneo, che è importantissimo per la stabilità di tutti i paesi circostanti, Libia in primis, tanto per dirne uno, che sta collassando sostanzialmente. Il presidente Al-Sisi è in gravi difficoltà, il suo piano di riforme economiche non funziona, questo è come dire... last option si dice, l'ultima possibilità probabilmente, i rischi di una rivoluzione sono molto grandi, l'Egitto ha chiesto 12 miliardi di aiuti, 12 miliardi di dollari al Fondo Monetario Internazionale, secondo me tra qualche giorno vedrai che tutti si accorgeranno d'Egitto. Di che cosa sta per accadere in 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, sms pubblicità. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Mix 24. Dall'alba del 24 agosto, 1550 opere d'arte sono state trasferite dai musei e dalle chiese colpite dal terremoto del centro Italia. Un lavoro che ha coinvolto sovrintendenze e Ministero dei Beni Culturali e che ha attivato 120 squadre in 980 valutazioni per la messa in sicurezza delle opere dai rischi del sisma. Ma se oggi è il terremoto, ieri era la guerra a minacciare i capolavori dell'arte. C'è stato un altro momento nella storia italiana in cui bisognava compiere una corsa contro il tempo per salvaguardare capolavori artistici mondiali. Una sfida che ha visto come protagonista un funzionario dei beni culturali che durante la Seconda Guerra Mondiale diventa artefice del recupero di migliaia di capolavori dell'arte dagli inevitabili bombardamenti. Il suo nome è Pasquale Rotondi. Il luogo prescelto per ospitare le opere d'arte è la Rocca di Sasso Corvaro in provincia di Pesaro. Questo fortilizio stupendo del 400, robusto, con una sua caratteristica di essere tutto concentrato nella sua linea circolare, quindi difficilmente raggiungibile qualora vi fossero stati dei bombardamenti dall'alto. È qui che Rotondi mette in piedi la sua operazione salvataggio di migliaia di capolavori di Tiziano, Rubens, del Perugino e di molti altri artisti. Mi sono trovato custode di una massa di capolavori, 3.800 erano opere di pittura, scultura e arti minori e 4.000 pezzi erano costituiti da materiale bibliografico e archivistico. Pietrangelo, canzoniere, lo rileggiamo? Subito. I fatti sono nemici della verità. È il posto del capotavola e quello dove scelgo di sedere io. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Miracolo, Salvatore da Milano. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, in attesa da quanto? No, da poco, da poco. Ah, va bene. Senta, allora ci dica. Don Chisciotte. Giusto. Perfetto, bravo. Perché tutti pensano che sia D'Alema, invece è Don Chisciotte. grazie Salvatore, complimenti. C'è ancora una bolla, Mario? No, dico di tenere d'occhio. Niente bolla, non abbiamo più tempo. Aspetta, la voglio dire però. No, tenete d'occhio Wall Street, perché tutto quello che dicono gli indici della borsa oggi è, come dire, una lettura di quello che accadrà nelle elezioni americane. Dollaro, indice Dow Jones, tutta sta roba. E quindi? Trump è molto forte, molto più forte di quello che si immagina. Va bene. E adesso noi intanto col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, settembre 2016. Nuovo mantra della terapia antibiotica. Breve è meglio. 7 è un numero magico per qualsiasi trattamento medico, codificato addirittura dall'imperatore Costantino nel 321, l'imperatore Costantino era quello della battaglia di Ponte Milvio, che sosteneva che bisogna, qualsiasi processo medico, qualsiasi terapia medica deve andare avanti per almeno 7 giorni. E se volete ce lo siamo portato dietro fino ai giorni nostri, tanto che la terapia antibiotica tradizionalmente non è mai meno di 7 giorni, in genere tra i 7 e i 14. Alcuni studi clinici l'avevano questionato questo numero già nei primi anni 2000 e oggi l'editoriale di cui vi parlo riferisce di uno studio dove i pazienti ospedalizzati per polmonite ricevevano o una terapia antibiotica decisa dal medico che durava appunto perlomeno i 7 giorni convenzionali e mediamente si arrivava a 10, oppure l'altro braccio dello studio stoppava la terapia al 5° giorno se il paziente era senza febbre da 48 ore e senza complicanze. I due gruppi, quello a 5 e quello a 10 giorni, non avevano alcuna differenza, nel senso che andava uguale la terapia, nel senso che era positiva, e quelli più gravi che avevano avuto solo un trattamento di 5 giorni erano poi paradossalmente meno riammessi in ospedale nel mese successivo, come se una terapia antibiotica prolungata addirittura provocasse qualche danno maggiore rispetto a quella di soli 5 giorni. Quindi il messaggio è quello di ridiscutere col proprio medico, quando c'è bisogno ovviamente della terapia antibiotica, la durata della stessa. E per chiudere, Gloria Guerrera, che ci fa sentire stamattina? Oggi una canzone molto romantica che fotografa il momento della consapevolezza, la voglia di non perdersi, la promessa che non ti lascerò. Sergio Endrigo, Io che amo solo te. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male.